Buongiorno e benvenuti al corso Kollel Torah corso sul Chumash, sulla Torah scritta. E partiremo in realtà dalla parasha di Lech Lecha, ma prima un po' di introduzione. Il libro di Bereshit, il libro della Genesi, è chiaramente un libro di racconti prevalentemente. Il racconto della creazione del mondo, il racconto degli albori dell'umanità, Adamo ed Eva, Adamo e Havà nel Gan Eden, i primi fratelli, le prime gelosie, il primo omicidio, la storia del diluvio che ha cancellato tutto quello che era conosciuto. Diciamo che in breve passa attraverso la storia delle prime 20 generazioni che vanno da Adam, dal primo uomo e Havà, fino al periodo di Avraham Avinu, di Abramo, e poi entra a spiegare, a raccontare più in dettaglio la storia degli avi, dei nostri avi, Avraham, Yitzchak e Yaakov, delle madri, Sara, Rivka, Rachele, Lea, dei loro figli, e conclude il libro di Bereshit. Che tra l'altro, conclusione che sarà letta questo Shabbat che viene, conclude con la morte di Yosef, il figlio più amato, diciamo, di Yaakov Avinu, di Giacobbe. Le storie raccontate nel libro di Bereshit sono importanti nel senso delle lezioni che trasmettono non solamente per noi come Am Israel, come popolo ebraico, ma sono importanti per tutta l'umanità. Noi in realtà vorremmo in questo corso studiare queste storie, quindi questo libro, non come si legge la Bibbia, ma come si studia Torah. Che differenza c'è? Diciamo che leggendo la Bibbia significa prendere la lettura originale. In originale o in traduzione e leggere semplicemente ciò che è scritto. Studiare Torah significa entrare nel Beit HaMidrash, nella casa di studio, nella yeshiva, che esiste da millenni, quindi entrare in una casa di studio virtuale, vedere le parole della Torah così come sono state trasmesse. In questo Beit HaMidrash vivente, diciamo, nel corso dei millenni, dei secoli, delle generazioni, per entrare nelle spiegazioni, nelle idee, nelle lezioni che vogliamo trarre da ciò che studiamo nella Torah. E vedremo come ogni generazione sviluppa i pensieri in base a ciò che è stato trasmesso fino a quella generazione. Quando noi studiamo Torah, appunto a differenza di semplicemente leggere la Bibbia, abbiamo degli strumenti. Abbiamo degli strumenti che utilizziamo per chiarire ciò che stiamo studiando e per appunto anche approfondire. La prima cosa è chiaramente la lettura in lingua originale, anche se si potesse leggere in altre lingue, ma la lettura in lingua originale trasmette, proprio per le parole usate e le modalità, trasmette qualcosa di molto più profondo. In altre parole, ci sono dei termini che molto difficilmente sono traducibili, almeno traducibili con esattezza. E quindi quando vedremo i versetti, vedremo innanzitutto in lingua originale, anche se ovviamente tradurremo perché tutti possano capire. E proseguendo con la lezione, dicevamo che è bene conoscere la lingua originale, ci sono molti termini che la Torah usa, che è molto difficile che si traducano in maniera esatta e precisa. Ci sono quindi, come dicevo, degli strumenti con i quali viene trasmessa la Torah. In che maniera è stata trasmessa la Torah nel corso delle generazioni? Beh, tutti diranno abbiamo il Sefer, abbiamo il rotolo, la pergamena che è stato sempre trasmesso e chiaramente però questo è solo uno dei strumenti. Innanzitutto il Sefer prevede certe specifiche, per esempio. Abbiamo la suddivisione del testo in versetti. Questi versetti non vengono indicati, cioè la distinzione tra un versetto e l'altro, l'interruzione per poi iniziare un altro versetto, con un punto, con una virgola, non sono espliciti sulla Torah. Sulla Torah non c'è questo tipo di punteggiatura. E quindi, da dove si sa come trasmettere, come dividere la Torah in versetti. Il Talmud ci dice, i maestri dicono, col Pesukah, ogni versetto, ogni interruzione per creare un versetto, della Paschè Moshe, che non è stato indicato da Moshe Rabbeinu, Anan la Paschina lei, noi non lo indichiamo. Vuol dire, nel corso delle generazioni, nella trasmissione della Torah, si è cercato di mantenere esattamente lo stesso punto di interruzione tra versetti nel corso delle generazioni, che è stato trasmesso come oralmente, non è stato messo per iscritto sulla Torah. Quindi questo è il primo, questo è uno dei strumenti che abbiamo trasmesso nel corso delle generazioni, è la divisione tra un versetto e l'altro. Ci sono altri strumenti che invece sono esclusivi solamente nella lingua originale. La distinzione in versetti chiaramente è una cosa che si trasmette anche in traduzione, eventualmente, però altre cose possono essere fatte solamente, altri strumenti valgono solamente nel originale. Quali sono questi? La prima cosa, la punteggiatura, cioè nel senso della vocalizzazione, le vocali della Torah. Sono stati trasmessi oralmente, cioè in altre parole, come pronunciare le parole che sono scritte. Sull'alfabeto ebraico non ci sono le vocali, quasi non ci sono lettere che possono dare indicazioni di una vocalizzazione. Esistono alcune lettere che sono usate anche come vocali, ma in generale esistono solamente consonanti sull'alfabeto ebraico. E quindi si potrebbe vedere una parola e leggerla in diverse maniere e ottenere diversi significati. E quindi la tradizione è quella che conserva la vocalizzazione corretta delle parole della Torah. Un'altra cosa che non si trasmette in altre lingue, e scusate di nuovo l'interruzione, sono i teamim. I teamim sono i segni che possiamo vedere stampati in un libro stampato della Torah in ebraico e sono le note del canto, di come si legge, come si canta la lettura del Sefer. Anche questi hanno un significato particolare, queste note musicali, se vogliamo, che indicano come cantare appunto la lettura del Sefer. Non hanno in realtà solamente la funzione di dare una buona esperienza nel sentire come si canta il Sefer, bensì hanno una vera e propria funzione di punteggiatura, perché in base a queste note musicali, per così dire, si può anche capire come la struttura, la sintassi del versetto, come leggerlo e così via. Questo, quindi le vocali, le note musicali, le parole che sono difficilmente traducibili, la distinzione tra un versetto e l'altro, questi sono tutti strumenti che fanno parte del Sefer Torah, anche se virtualmente, quindi trasmessi questi strumenti oralmente, e, diciamo, è un pacchetto che è incluso con il Sefer Torah. E gli ebrei nelle generazioni hanno sempre cercato di salvaguardare il più possibile l'esattezza di questi strumenti e trasmetterli alla prossima generazione. Ora abbiamo parlato della distinzione tra un versetto e l'altro, ma i brani della Torah ci sono anche delle suddivisioni dei brani della Torah. Per esempio, abbiamo le parashiot, quindi ciò che noi chiamiamo parashah correntemente è inteso come la parashah della settimana, quindi la suddivisione della Torah in un certo numero, poco più di 50 brani che nel corso dell'anno si leggono sul Sefer, per concluderlo una volta l'anno. E ok, bene, stanno entrando dei commenti. Buongiorno, e se ci sono domande si possono anche scrivere nei commenti. Cercherò di rispondere sul posto, se non sul posto, alla fine risponderò al commento. Blineder, senza impegno. Quindi la suddivisione della Torah in parashiot della settimana, la suddivisione della Torah in capitoli e versetti, quindi numero di capitolo e versetto numerato. In realtà questa ultima suddivisione che ho menzionato non ha origini ebraiche, anche se è stata, diciamo così, adottata o accettata nel mondo ebraico. E poi abbiamo nella Torah, vedremo più avanti magari il significato, abbiamo nella Torah dei brani che sono più brevi dei brani della Parashah della settimana. In realtà a questi brani si addice realmente la parola Parashah, che significa brano, e è una suddivisione interna nella Torah che è indicata o da un andare a capo della riga o dal lasciare dello spazio prima di riprendere il prossimo brano, e anche questo fa parte appunto della Torah. E poi abbiamo ulteriori strumenti. Quali sono gli ulteriori strumenti per entrare nel Beit HaMidrash, per entrare nella casa di studio virtuale che dura da più di 3 millenni? Assieme a quello che è scritto sulla Torah è stato trasmesso un immenso strumento di spiegazione di tradizioni trasmesse, di approfondimenti e di significato non esplicito sul Sefer della Torah stessa, e tutto questo è stato trasmesso come Torah orale. Quindi originalmente veniva trasmesso oralmente. Solamente sul libro di Bereshit, se andiamo a vedere una delle maggiori, diciamo così, librerie virtuali, biblioteca virtuale che ci sono oggi sul mercato per libri di Torah, lì possiamo trovare più di 1.000 opere, 1.000 libri, solamente sul libro di Bereshit, sul primo dei 5 libri della Torah. Ovviamente non tutte queste opere sono veri e propri commenti, ma molto spesso lo sono. Sono commentatori, approfondimenti e considerazioni in base appunto alle spiegazioni precedenti. Le prime opere, che non rimangono più a livello solamente orale, ci giungono o sono state. Sono state scritte dai nostri Chachamim. Cosa vuol dire i nostri Chachamim? In ebraico si dice spesso, si usa l'acronimo Chazal. Chazal è l'acronimo di Chachameinu, Zichronam, Livracha, i nostri maestri, che la loro memoria sia di benedizione. E si intende con questo termine molto generico, si intende in generale i maestri dall'epoca del secondo tempio, i maestri della Mishnah, fino a circa il V secolo, almeno in Israele, e anche più tardi in Babilonia. Quindi l'epoca della Mishnah e poi l'epoca del Talmud, le loro opere più note e più importanti sono appunto la Mishnah e poi il Talmud, ma quello che ci interessa anche molto a noi studiando la Torah scritta sono i Midrashim. I Midrashim che si occupano della Torah e in particolare del libro di Bereshit. I Midrashim non sono un commento di per sé alla Torah, sono più che altro un arricchimento, e cioè sono come hanno una funzione, diciamo così, di riempire i vuoti. La Torah nei racconti, qui stiamo parlando dei racconti perché stiamo parlando del libro di Bereshit, come dicevo prima, è un libro di racconti. I Midrashim arricchiscono, danno più informazioni, background, spiegazioni per capire meglio il senso di quello che la Torah sta dicendo con metafore, e ci portano a fare delle considerazioni anche di natura etica, quindi di trarre delle lezioni nel nostro comportamento da quello che studiamo su queste storie, su questi arricchimenti e su questi approfondimenti. È interessante notare che sarebbe interessante notare che effettivamente quando parliamo delle prime traduzioni della Torah, le prime traduzioni della Torah che sono state fatte in lingua greca, prima dell'epoca dei nostri Chachamim citati prima, quindi sicuramente prima che fossero messi per iscritto i Midrashim, che arricchiscono e danno più informazioni, quelle prime traduzioni, già leggendole, possiamo trovare tracce di Midrashim che poi ci sono giunti più tardi tramite i Chachamim, cosa che ci fa capire quanto siano antiche queste fonti, quanto la Torah sia stata sempre trasmessa con tutto, diciamo, un accompagnamento di informazioni che non erano scritti, non erano messi per iscritto. Andando avanti nel tempo, arrivando fino all'inizio del secondo millennio dell'era volgare, troviamo, diciamo, arrivano sulla scena i commentatori del testo della Torah. Parliamo di un'epoca in cui già il sole della grande era talmudica e geonica babilonese era tramontato, gli ebrei non avevano più l'unico centro della Babilonia come centro mondiale della Torah, e si erano sparsi in ulteriori luoghi nel mondo, e è chiaro che in ogni luogo in cui c'era una presenza ebraica c'era un Bet Midrash vivo, dove i maestri insegnavano e approfondivano i significati di tutto ciò che era stato trasmesso fino a quel momento, e in quel momento, appunto, indicato, nascono i commentatori della Torah. I commentatori della Torah, in quell'epoca, creano un nuovo modo di un nuovo approccio ai versetti, alla comprensione dei versetti della Torah. Perché si entra in un discorso grammatico, capire ogni versetto così come è strutturato e legato agli altri versetti, la spiegazione di parole non comuni o parole difficili, termini difficili, spiegano concetti che possono essere non chiari per chi legge, magari a causa delle diverse epoche e così via, cercano di rispondere, di trovare soluzioni a delle evidenti contraddizioni che potrebbero verificarsi, e si occupano anche di domande di cronologia. L'ordine degli eventi, appunto, esposti nei racconti della Torah, si occupano anche di geografia e di altro ancora. Dall'altra parte approfondiscono anche molto, e a volte abbiamo diversi commentatori che si occupano di una o altre di questi aspetti. Quindi abbiamo, come dicevo, al tempo stesso anche commentatori che si occupano del contenuto del messaggio che la Torah vuole trasmettere in un determinato versetto o un determinato racconto, si potrebbero occupare di allusioni presenti nel testo, quindi diciamo così, tesori nascosti all'interno delle parole in maniera assolutamente non esplicita, e quindi nasce, diciamo, in questo momento in maniera molto chiara una distinzione tra diversi tipi di approcci nel commentare la Torah, che ormai diventa molto nota questa distinzione, che è la distinzione tra il Peshat, ovvero il senso semplice, semplice letterale, senso semplice del versetto, il Remez, che sarebbe l'allusione, il Derash, che è un'esegesi che può essere di tipo alachico o midrashico, come vedremo più avanti. E poi il sod. Sod significa letteralmente segreto, e chiaramente qui parliamo quindi dell'aspetto più mistico, se vogliamo, cabalistico, eccetera. Tutti questi aspetti nel commentare la Torah esistono contemporaneamente, esistono contemporaneamente perché rappresentano diversi strati di significato di una determinata parola o di un determinato versetto o di un concetto. Appunto, ogni parola della Torah può avere e ha sicuramente diversi strati di significato, qualcosa che è più visibile e qualche strato che è meno visibile, meno evidente. In generale, questa è una cosa assolutamente semplice e scontata, nel senso ogni tipo di discorso, ogni tipo di opera, anche una semplice conversazione tra persone può, spesso ha diversi strati, se vogliamo, di significato. Facciamo un esempio. Una persona viene a trovare un'altra persona a casa alle ore 19 la sera. Dice il padrone di casa all'ospite: bene, sembra che è arrivato il momento della mia cena. Bene, questa frase, molto semplice, potrebbe voler dire diverse cose. Forse può voler dire il senso semplice: questo è l'orario in cui io ceno. Normalmente io ceno a quest'ora. Ci potrebbe essere un'allusione in questa frase. L'allusione potrebbe essere: beh, non è questo il momento di venirmi a trovare perché devo cenare, quindi vieni in un altro momento. Poi ci potrebbero essere altri significati. Se questo è il momento della cena, per esempio, potremmo dedurre più o meno quando è il momento del pranzo, normalmente in questa casa. Possiamo dedurre da questo forse più o meno quando è il momento di andare a letto in questa casa. E poi ci sono elementi più nascosti. Forse uno psicologo o un psicanalista potrebbe parlare con questo padrone di casa per capire motivi profondi, forse all'insaputa sua, di perché ha deciso di mangiare proprio alle ore 19 tutte le sere. Forse qualcosa nella sua infanzia, forse legato a dei ricordi, forse legato a delle paure, delle ansie, chissà cosa potrebbe venire fuori. Quindi, questo solo per dire che possono esistere molti strati di significato in qualsiasi frase, in molte parole, anche per quanto potessero essere molto banali. E allora noi che parliamo della Torah, che è un'opera divina, non possiamo accontentarci di solamente un unico significato, e l'idea è che si può affrontare ogni cosa nella Torah da moltissimi punti di vista. E allora facciamo un esempio proprio da un versetto della Torah. La Torah ci dice nella parashah di Lech Lecha, la parasha di Lech Lecha è la parasha nella quale viene detto al primo dei nostri avi, ad Avraham Avinu, di andare via dalla propria terra natia, dal proprio luogo originale, e poi prendere tutto e andare in quella che era la terra di Canaan. La Torah ci descrive l'arrivo di Avram e Sarah in terra di Canaan, ma che poi si verificò un problema in quanto ci fu una carestia. E il versetto che si trova nella parasha appunto di Lech Lecha al capitolo 12, versetto 10, 12:10, la Torah dice così. Vayehi ra'av ba'aretz, ci fu una carestia nel paese, quindi nella terra in quel paese di Canaan. Vayered Avram Mitzrayma, e Avram scese in Egitto, lagur sham, per abitarci, ki chaved ha-ra'av ba'aretz, poiché la carestia nel paese era grave. La carestia era grave. Allora, lo strato del semplice significato cosa ci dice? Ci dice che è successo qualcosa, è accaduto che c'era una carestia ed Abraham e Sarah sono scesi in Egitto, bene? Perché lì potevano sopravvivere. Vediamo, secondo uno dei commentatori, in questo caso si tratta del Ramban, che più avanti vedremo di chi si tratta con più precisione, parlando di un aspetto di remes, quindi di allusione, la storia della discesa di Abramo in Egitto in realtà è un'allusione, oltre alla storia semplice. C'è in questo anche un'allusione e un esempio, se vogliamo, per un futuro. Un evento che accadrà nel futuro. Cos'è questo evento? La discesa dell'allora popolo ebraico, se vogliamo chiamarlo così, quindi Yaakov Avinu, con tutta la sua famiglia, tutte le future tribù, una settantina di persone che vanno in Egitto a causa sempre di una carestia. Ma la differenza è che quella discesa in Egitto si trasformerà poi nell'esilio e nella persecuzione, nella schiavitù che poi avverrà. La storia di Avraham Avinu, quindi, è la storia di una persona singola, lui e Sarah, la sua moglie, ma ogni cosa che avviene con Avraham poi avverrà nuovamente su uno scalo, su un piano più grande con la sua discendenza, con tutto il popolo. E approfondiremo anche questo aspetto più avanti. Quindi questo però non è scritto sul versetto, ma potrebbe essere visto come una allusione. Questo per il Pshat e il Remes. Per ciò che riguarda il Drash, cioè l'aspetto midrashico di esegesi, abbiamo alcuni punti sui quali possiamo approfondire. Per esempio, Abraham scende in Egitto a causa della carestia, ok? A causa della carestia, Avram scende in Egitto e la Torah dice che la carestia è grave. Ki chaved ha-ra'av, come abbiamo citato prima. Vorremmo capire, secondo il Derash, quanto grave era questa carestia. Cosa ci cambia quanto grave era? Perché noi abbiamo una regola, la mitzvah è che una persona che abita in Eretz Israel è vietato per lui uscire fuori da Eretz Israel, senza un motivo, ovviamente, un motivo che può giustificare questa uscita. Per esempio, il Rambam, Maimonide, scrive che è vietato appunto uscire da Eretz Israel, se non che ci sono diverse motivazioni che possono essere una giustificazione, tra cui appunto il problema di natura. Di quello che si parla qui, quindi la carestia, e il Maimonide Rambam dice come si definisce carestia. Si definisce secondo il prezzo dei beni alimentari base, per esempio il grano. Se il prezzo del grano raddoppia, quindi c'è un aumento del 100%, se c'è un aumento del 100%, allora questo potrebbe costituire una giustificazione per uscire fuori da Eretz Israel senza, diciamo, trasgredire questa regola, questa mitzvah. E allora, quando noi vediamo questo versetto qui che dice che visto che la carestia era così grave, Avram andò via da Eretz Israel, diventa una discussione che prescinde totalmente dal racconto stesso, diventa una discussione di Halakha di come affrontare nel futuro questioni simili. Per ciò che riguarda l'aspetto Sod, l'aspetto mistico, l'aspetto cabalistico, i maestri della Kabbalah vedono nella discesa di Avram in Egitto diciamo una metafora per ciò che è la discesa dell'anima dall'alto fino in basso nel corpo umano. Quindi qualcosa di molto mistico, qualcosa dalla quale possiamo trarre delle lezioni per ciò che riguarda le cadute spirituali, quindi sempre di discesa si parla, l'idea di una caduta spirituale, una discesa spirituale, un problema a livello spirituale e poi una risalita, che è una risalita dell'anima, che possono queste cose capitare nel corso della vita della persona molto comunemente, e questi racconti, visti sotto questo profilo, potrebbero aiutarci ad affrontare queste problematiche. E quindi questo era un esempio di come un versetto può essere interpretato secondo vari strati che possono coesistere e non contraddirsi a vicenda, bensì essere tutti validi al tempo stesso in base a quello che è quello che è l'interesse di chi studia in quel momento. Potrebbe affrontare il versetto in diverse maniere. E questo era solo un esempio, ancora non abbiamo iniziato il corso perché stiamo ancora nella introduzione, stiamo parlando degli strumenti che abbiamo per studiare la Torah. Allora, tornando appunto al discorso sui commentatori, torniamo un attimino per vedere brevemente quali sono i commentatori principali a cui faremo riferimento nel corso appunto di queste lezioni. La prima cosa, il primo commentatore che vorrei citare è Rashi. Rashi, acronimo di Rabbeinu Shlomo Yitzchaki, che è vissuto dal 1040 circa al 1105 in Francia, nello specifico la città di Troyes, è considerato, se non il più importante, uno dei più importanti in assoluto tra i commentatori della Torah. Ha commentato anche altre opere, ma qui stiamo parlando di Torah, cioè della Torah scritta. Rashi proviene da un luogo che rientra nella geografia ebraica, quindi non guardando adesso la cartina diciamo di che paese specifico si tratta a livello politico, però per ciò che riguarda le tradizioni ebraiche, Rashi fa parte del mondo di Ashkenaz. Ashkenaz letteralmente significa Germania, ma è nella nostra tradizione un riferimento agli ebrei che provengono da quelle zone di Ashkenaz che vanno a cavallo di Germania, Francia, anche nord Italia. E che poi queste sono comunità che si espandono nei secoli e vanno verso l'est, quindi Ashkenaziti provengono anche dall'est Europa, però la culla dell'Ashkenaz è questa. E Rashi da lì proviene. Rashi usa nel suo commento, dispone di molto, molto materiale che appare nei Midrashim di cui abbiamo parlato prima. In molti, molti casi il commento di Rashi si basa sui Midrashim, Anche se i Midrashim, molto spesso, quasi sempre, prescindono dal mondo del Pshat, quindi escono fuori dal senso letterale, Rashi considera se stesso un commentatore che vuole dare il senso semplice, vuole considerarsi come un commentatore del mondo del Pshat, del senso semplice, del senso dei versetti semplici. In quanto Rashi nel suo commento in realtà non nasce come un commento che vuole, diciamo così, accompagnare lo studio e commentare tutto ciò che la Torah dice. Rashi nasce come chi vuole accompagnare qualcuno che legge i versetti della Torah e si pone delle domande che nascono dalla lettura stessa, quindi che necessita di chiarimenti che sembrano quasi delle esigenze per poter procedere nella lettura. E quindi Rashi cerca di dare risposte a queste domande e usa moltissimo appunto i Midrashim per questo fine qui. Molto spesso Rashi cita dei Midrashim, ma non li cita parola per parola, li riformula proprio per appunto dare risposta a delle domande che nascono nella lettura della Torah. Il commento di Rashi è un commento molto molto ricco, che è valido sia per chi vuole conoscere il senso semplice, sia per chi vuole approfondire più nel Derash, e questo senza allungare molto le spiegazioni, anzi Rashi usa un linguaggio molto molto conciso, molto breve, molto chiaro, e tutto ciò ha fatto sì che Rashi diventasse il commentatore più conosciuto in assoluto sulla Torah. E di fatto la maggior parte dei libri di Torah che vengono pubblicati sono stampati assieme al commento di Rashi. È quasi strano aprire un libro di Torah e non vedere, cioè è raro di aprire un libro di Torah e non vedere il commento di Rashi sotto o a fianco. Poco dopo Rashi, cronologicamente, è nata, diciamo, una distinzione più chiara tra il mondo del Pshat, il mondo del senso letterale, e il mondo dell'approfondimento di Remes, di allusioni e di Derash, di Midrashim, e quindi abbiamo una serie di commentatori che sono molto più, si tengono molto di più al senso letterale, spesso discutendo con Rashi. Tra questi, e tra i più importanti di questi abbiamo il Rashbam. Rashbam è un acronimo di Rabbeinu Shemuel ben Meir, Shemuel figlio di Meir, che tra l'altro è un nipote di Rashi, figlio della figlia, e la sua madre si chiamava Yocheved, ed era una delle figlie di Rashi. Anche lui veniva dal nord della Francia, ed era stato un allievo molto molto vicino al suo nonno Rashi, ma appunto ha un'altra maniera di spiegare il senso semplice della Torah, ed è considerato uno dei più grandi in questo campo. Tra parentesi, ci sono dei commenti dello stesso Rashbam anche su alcuni trattati del Talmud. Un altro commentatore al quale vorrei fare riferimento è Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra. Ibn vuol dire figlio di in arabo, che è vissuto dal 1089 al 1164, quindi è coetaneo di Rashbam, che non ho detto, ma adesso vi dico, è vissuto dal 1080 al 1160, quindi quasi esattamente stessi anni. Invece Ibn Ezra nasce però in Spagna, nell'epoca d'oro dell'ebraismo spagnolo. Ibn Ezra era un linguista, era un poeta. Nel suo commento pone grandissima enfasi sull'aspetto tecnico-linguistico delle parole della Torah. Molto spesso critica altri commentatori che secondo lui hanno sbagliato nel commentare, e a volte anche in maniera molto, molto forte, molto, con una lingua tagliente, diciamo. Rabbi Abraham Ibn Ezra era origine di, appunto, originario della Spagna, ma è vissuto in molti luoghi diversi. Era una persona che ha sofferto molto nella vita, è sempre stato povero, diciamo così, tra virgolette, sfortunato, e anche questo è un tema di alcune delle sue poesie. Andiamo avanti, parliamo di un altro commentatore che era Rabbi Yosef Bechor Shor. Rabbi Yosef Bechor Shor nel XII secolo in Francia, in Orléans, nello specifico, offre un commento alla Torah, che è molto originale, creativo se vogliamo, cerca di trovare il senso molto logico e reale nel commentare. Il suo commento quindi diventa anche una base per commentatori di simili idee, più avanti nella storia. La famiglia Bechor Shor o Shur è una famiglia ebraica molto conosciuta, che esiste ancora oggi, cioè che ha dei discendenti ancora oggi in vita. Un altro commentatore di cui vogliamo parlare è il Chizkuni. Chizkuni è un commento scritto da Rabbi Chizkia ben Manoach, anche lui dalla Francia, anni di vita 1250 al 1310. Non si sa molto della vita del Rabbi Chizkia, del Chizkuni. Anche lui scrive nella sua introduzione al suo commento che è vissuto in molti luoghi, diciamo ha vagabondato anche lui, però lui scrive che ha fatto questo per trovare sempre più spiegazioni e commenti alla Torah. Appunto il suo commento cita, diciamo è come un compendio che raccoglie moltissimi commenti di commentatori che erano poco conosciuti, ed il suo commento invece è diventato abbastanza popolare, abbastanza noto. In Provenza, Provence, abbiamo Rabbi David Kimchi, conosciuto con l'acronimo Radak, 1160-1235, è di Provenza, ma la famiglia è di origine spagnola. Non è l'unico commentatore della famiglia, suo padre e suo fratello anche si occuparono di questo. Lui è uno dei più importanti maestri commentatori di Dikduk, quindi della grammatica della Shona Kodesh, della lingua sacra, della Torah. Ha scritto opere in questo campo e sono opere molto molto importanti. Il suo commento non è solamente sui cinque libri della Torah, ma interessa, cioè non è su tutti i cinque libri della Torah, ma è su molti dei libri del Tanakh. Infine vorrei citare il Sforno, infine, cioè alla fine di questa lista di commentatori che si occupano soprattutto del senso semplice, letterale, grammatica, dei versetti. Vorrei citare qui anche Sforno, Rabbi Ovadia Sforno, circa 1470 al 1550, che era un maestro e un medico e si occupava anche di stampa, e qui in Italia è uno dei capi, uno dei maestri di diverse Keilot in Italia, soprattutto Bologna, ma è vissuto anche a Roma e mi sembra anche Cesena. Il suo commento è caratterizzato da una grandissima chiarezza, scrive in maniera molto lucida, breve, ed è un commento estremamente popolare quello del Sforno, e appunto, come dicevo, commenta più che altro dal punto di vista letterale, anche se a volte fa approfondimenti di natura filosofica. Abbiamo parlato di alcuni commentatori che si occupano del mondo del Pshat, quindi del senso letterale, e Abbiamo altri commentatori che si occupano, come dicevo prima, di altri aspetti di ciò che viene trasmesso nella Torah, quindi discorsi più legati al contenuto generale, qual è il senso più profondo di questo racconto che si vorrebbe trasmettere attraverso la storia, a tutte le generazioni, chiaramente. E forse il più importante tra questi commentatori, e il più noto sicuramente, è il Ramban. Ramban è un acronimo di Rabbi Moshe ben Nachman. Rabbi Moshe ben Nachman, il suo commento al libro di Bereshit è considerato, diciamo così, per diffusione, il secondo dopo quello di Rashi. Il Ramban è anche il primo che nel suo commento tocca il mondo della mistica, il mondo del Sod, il mondo della Kabbalah. Il Ramban, solo una breve nota biografica, il Ramban nasce anche lui, come alcuni degli altri menzionati, in Spagna, vive dal 1194 al 1270 ed era nella sua epoca il più grande dei maestri spagnoli, ed era un'epoca in cui c'erano tanti grandi maestri, era il capo della grande yeshiva a Barcellona e verso la fine della sua vita fece l'Aliyah e si trasferì in Eretz Israel. Oltre al suo commento sulla Torah, ha scritto un commento monumentale molto importante su molti trattati del Talmud, della Gemara, e ha scritto anche altre opere. Ha creato, diciamo così, ha avuto moltissimi allievi, i suoi allievi a loro volta, molti di loro erano importanti maestri che hanno ulteriormente trasmesso la conoscenza della Torah e gli approfondimenti, e quindi ha lasciato una grandissima eredità spirituale al popolo ebraico. Il suo commento sulla Torah nello specifico, si dilunga di più rispetto agli altri commenti di cui abbiamo parlato prima. Non ha problemi ad entrare sia nel mondo del Pshat, quindi il senso letterale, che il mondo del Drash, i Midrashim, l'esegesi, le allusioni e il mondo come dicevamo prima, della mistica, del Sod. Molto, molto spesso cita Rashi, cita Ibn Ezra, spesso riporta le parole del Maimonide, del Rambam, e discute con loro e approfondisce il senso dei loro commenti e delle loro idee. Un altro commentatore a cui vorrei fare riferimento è Rabbeinu Bachya, o alcuni lo chiamano Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bachya 1255 al 1340, quindi nasce verso la fine della vita del Ramban appena citato, anche lui quindi la generazione successiva sempre in Spagna. Lui ha studiato dalla bocca degli allievi del Ramban, come dicevamo prima, che ha lasciato una grande eredità spirituale. Anche Rabbeinu Bachya nel suo commento molto importante ed estremamente citato, anche se abbastanza profondo, anche lui, diciamo, cerca di fondere nel suo commento diverse modalità di studio tra le quattro modalità che abbiamo citato. Lui tocca come Ramban tutti questi aspetti, molto spesso andando direttamente alla parte più profonda. Altri commenti importanti come Abarbanel, Alshich, Or HaChaim, Kelei Yakar, saranno citati più avanti, ma per ora rimaniamo con queste brevi biografie qui. Guardando i diversi commentatori, per esempio su un qualsiasi versetto, potremmo rimanere colpiti da come alcuni commentatori sembrano essere d'accordo gli uni con gli altri su una determinata spiegazione, altri si complementano, altri discutono, altri si contraddicono, e tutto questo fa parte dell'esperienza, come dicevo all'inizio, di studiare Torah. Questo è proprio il cuore dello studio della Torah, è quello di approfondire secondo tutte queste visioni che ci sono state trasmesse. E cioè, magari uno studia un versetto della Torah e vede la spiegazione di Rashi e poi vede che comunque Ramban, lo cita, ma poi spiega perché non è d'accordo e così si può integrare anche una terza visione e così via. Alcuni si chiederanno allora chi ha ragione, se vedessimo una situazione di questo genere che appunto è molto comune. Non stiamo cercando di vedere chi ha ragione, hanno tutti ragione. Come ho spiegato prima, tutti i strati hanno la loro validità. Anche se dovessero discutere su dei fatti accaduti nei racconti, anche lì non ci interessa veramente capire chi ha ragione. Quello che ci interessa capire, ci interessa di capire qual è la lezione che la Torah ci sta trasmettendo attraverso questo racconto. E le lezioni possono essere valide in entrambe le maniere, nel caso ci fossero due visioni. E quindi i significati dei contenuti sono quelli che sono soprattutto validi nel studiare la Torah. I racconti di cui parla la Torah all'inizio, nel libro di Bereshit, ci portano indietro di circa 3.800 anni. La Torah ci parla dei discendenti di Noach, Noè, che vengono poi sparsi in vari luoghi della terra, e la Torah addirittura elenca i nomi delle tribù che provengono da Noè, finché arriviamo in un elenco, cronologico di padre in figlio, finché arriviamo ad Abraham. Avraham Avinu, il primo padre del popolo ebraico. La Torah ci dice che questa famiglia nella quale nasce Avraham abita in un luogo che si chiama Aram Naharaim, e cioè Aram dei due fiumi perché luogo oggi sito i due fiumi si intende l'Eufrate e Perat Vechidekel, si dice in ebraico, adesso mi sfugge in italiano il nome del Chidekel, comunque quei due grandi fiumi, Iraq, Suria, Turchia, la zona che si chiamava la Mesopotamia. E tramite queste storie noi possiamo anche evincere molte informazioni per ciò che riguarda la storia locale di quei luoghi. Gli imperi che esistevano, che governavano in quei momenti, in quei tempi storici. E chiaramente il più importante tra questi, nei racconti della Torah, è l'antico Egitto. Alla fine della descrizione della discendenza, i discendenti di Noach, la Torah dice, e qui citiamo dalla fine del libro della Parashah di Noach proprio. Se qualcuno poi volesse seguire il testo, lo trova al capitolo 11, versetto versetto 26. E la Torah dice: Vayichi Terach 70 shana. Terach visse 70 anni prima di mettere figli alla luce, figli al mondo. Vayoled et Avram et Nachor ve Taran. E poi, dopo che giunse all'età di 70 anni, ebbe tre figli, Avram, Nachor e Haran. La Torah continua nel prossimo versetto e dice: Ve elle toledot Terach. Queste sono le discendenze di Terach, cioè Terach di nuovo è il padre di Avram. Terach holid et Avram et Nachor ve Taran, ve Haran holid et Lot. La Torah ci dice che appunto chi furono i tre figli di Terach e chi fu il figlio di un nipote, uno dei figli di Terach, che fu Haran, ebbe un figlio che si chiamava Lot. Poi la Torah ci dice, Vayamot Haran, che Haran, il papà di Lot, il figlio di Terach, morì. al Penei Terach Aviv, quando suo padre Terach era ancora in vita, Be'eretz Molatobe Ur Kasdim, nella terra della sua nascita, in Ur Kasdim. Ur Kasdim è una città nella zona di Aram Naharaim che dicevamo prima. Così spiegano diversi commentatori quello che vi ho appena detto. Proseguiamo. Vaikach Avram Venachor Lahem Nashim. Avram e Nachor, i due fratelli rimanenti, dopo la morte, rimanenti in vita dopo la morte di Haran, si presero delle mogli, quindi si sposarono. Shem Eshet Avram Sarai, il nome della moglie di Avram era Sarai, e Shem Eshet Nachor Milka, e il nome della moglie di Nachor era Milka. E la Torah ci dà delle informazioni riguardanti quest'ultima persona e ci dice Bat Haran, lei era la figlia di Haran. La moglie di Nahor era figlia di Haran, Avi Milka Avi Yisca, cioè era la sua nipote. Poi la Torah ci dice, Vatehi Sarah Akara en Lavalad, riguardo la moglie di Avram, la Torah ci dice che era sterile e non aveva figli. Poi, Vaikach Terach et Avram Beno, Terach prese suo figlio Avram, Vet Lot Ben Haran Ben Beno, prese il suo nipote Lot, figlio di Haran, Ve'et Sarai Kalato Eshet Avram Beno, prese appunto anche con sé la moglie di suo figlio Avram, quindi Sarai, Vayetzu Itam Me Ur Kasdim. Tutti loro partirono da Ur Kasdim, la Lechet Arza Kenan, per recarsi in terra di Kenan, Vayavou Ad Haran Vayeshevu Sham. Presero la strada per recarsi verso la terra di Kenan, ma non arrivarono. Non giunsero fino in terra di Canaan, si fermarono in un luogo che la Torah chiama Haran. E lì si stabilirono. Vayiyu Yemei Terach, e concludendo la storia delle discendenze e della biografia di Terach, del padre di Avram, la Torah dice, gli anni di Terach furono in totale Hamesh Shanim Umataim Shana, 205 anni. Vayamo Terach Beharan. E Terach morì appunto lì nella città in cui si erano fermati, si furono stabiliti, che è la città di Haran. E a questo punto la Torah inizierà a parlare della storia di Avram. Avendo dato questo anticipo sulla famiglia di Avram, di come si è formata e del matrimonio tra Avram e Sarai, così come erano chiamati all'epoca, poi la Torah entrerà più nel dettaglio della vita del nostro primo padre Avram. E inizieremo ad approfondirlo nella prossima lezione.